e alcune volte fanno figli con gli umani chiamati mezzo sangue. Siamo molto simili a chiunque altro potresti incontrare, ma con qualche considerevole differenza. Viviamo nell'unico luogo sicuro per la nostra specie. Fino adesso. Che sarebbe? Vai all'oracolo. Persi. Cronos, una forza così malvagia che tre dei suoi figli, Zeus, Ade e Poseidone, lo hanno distrutto. È destinato a risorgere per esigere la sua vendetta sull'Olimpo e sul mondo. L'unica cosa che ha il potere di salvare la nostra casa è il vello d'oro. Si trova nel mare dei mostri, quello che gli umani chiamano il Triangolo delle Bermuda. La nostra impresa richiederà il nostro migliore eroe. Il migliore di noi, la figlia del dio della guerra, Clarisse! Non te la prendere se arrivi sempre secondo, Jackson. Sai, tutto quello che dicono di te è sbagliato. In realtà hai il senso dell'umorismo. Non è una buona idea. Non sai nemmeno che volevo dire. Volevi dire che andrai alla ricerca del vello. In realtà voleva dire che andremo. Queste sono le immagini di Percy Jackson, l'erede di... Harry Potter. Oh, bravissimo. Grazie, grazie. Delle volte, guarda, mi stupisci. Incredibile. Per la presenza, proprio, la prontezza. Gabriele Vasquez. La lucidità di spirito. Gabriele Vasquez e Niola, o Niola, o Niola. Ma anche Niola. Hai tre possibilità. Io mi accontento. Vabbè. Bentornato da Venice. Grazie, grazie, grazie. Vabbè, noi sempre in ritardo siamo costretti a commentare le cose perché ti avevamo chiamato venerdì, ma tu venerdì... Stavo a vedere un film, stavo a fare il mio lavoro. Il tuo lavoro, però altri, altri davano in diretta le cose. Sì, sbagliate perché so cosa hanno dato in diretta. Se tu l'avessi chiesto a me, io l'avrei dato giuste. Io volevo, ma e tu non solo, rispondevi. Non solo, io le ho anche, scritte, le ho anche scritte online prima della premiazione, le cose avevo ragione, per cui... Io... Ma io per questo ti ho chiamato, perché tu... Ma io, tu però mi chiami 5... Ti chiamo tra 5 minuti l'SMS, sala. Cioè, quella è la... Deve essere la velocità la del cronista immediata, capisci? Telefono, cellulare, tablet, pronto, sì, sto facendo questo, ma ti rispondo. Un cronista di nuova generazione. Santa pace, oh, Venezia, siamo sempre gli ultimi, arriviamo 7 giorni dopo. Ma però... Che, con che riflessioni, ma con che capito, il portato intellettuale della riflessione, devo dire che non ha pari, secondo me. Sì. Guarda, lasciamo perdere. Ad ogni buon conto, la porta, che siamo al bar. Ad ogni buon conto, ha vinto un film italiano dopo 15 anni, ma che dico italiano, un film romano dopo 15 anni. Oh. Era ora, direi. Quanto tempo è che non vince un film romano? Non ha mai vinto un film romano. Al volo di biciclette. Non ha vinto Venezia. Non mi viene in mente. Ma sei sicuro? Sì. Sì. Ha vinto l'Oscar. Vabbè, ci vuoi sta. Così al volo non mi viene in mente. Però sicuramente sono più di 15 anni, perché l'ultimo che aveva vinto era Gianni Amelio, e che non c'entra niente con Roma. E invece questo film, che si chiama, come tutti quanti ben sapete, Sacro Gra, era un film del quale, adesso io perché non c'ho la registrazione, però abbiamo le registrazioni delle puntate in cui vengono annunciati i titoli di Venezia, e ci sono io che dico: attenti a Sacro Gra. Me lo ricordo, è vero. Attenti, non c'ero quel giorno, me lo ricordo. E insomma, alla fine ha vinto. È un bellissimo documentario che, come capite dal titolo, ha a che vedere col Gra, col grande raccordo anulare. Quello che noi romani conosciamo un po' tutti. Abbastanza. Quando lo nomini, tutti le mani nei capelli. Esatto. Oddio, che fa sul raccordo? Ma che sei matto? C'è anche questo nel documentario. Sta zitto, ieri ho fatto il raccordo. Ti è mai capitato? Sì, cioè, sì. Guarda, sta zitto, ieri pomeriggio devo fare il raccordo. No, ancora meglio. Dove stai? Sto sul raccordo. Ecco, quello è ancora peggio. Sto sul raccordo. C'è pure questo nel documentario, il fatto che dai locali è vissuto come una maledizione, d'accordo? Come un luogo agghiacciante dove si passano ore fermi. È vero. È verissimo. Il documentario però in realtà non è proprio su questo. Il documentario è fatto da questo cineasta che si chiama Gianfranco Rosi. Nessuna parentela con Rosi l'altro. Ah, no. Nessuna parentela. Aspetta che Gianluca mi dice... Che dimmi, Gianluca? Che mi devi? Siamo una radio che non ha segreti. Non lo so, che mi devi chiedere il codice della bomba. Fila. Macchine in doppia fila, no. No, grazie. Bene. Grazie. Se è quella rossa col cavallino, è quella di Vasquez, capisci? Lascio lì perché si vede di più, capito? La gente la nota. E, dicevo, Gianfranco Rosi ha fatto questo documentario sulle comunità, cioè sulla gente che vive vicino al raccordo anulare, a massimo 100 metri dal raccordo, sia dentro che fuori. Al massimo 100 metri? Esatto, quindi proprio la gente che vive accanto al raccordo. Mm. E lui ha girato il raccordo per 2 anni con un minivan. Infatti ne vedevo uno con i capelli dritti, isterico, che faceva, Dio, aiutami! Con una videocamera in mano. Ho visto la luce. Insomma, ha ripreso queste comunità incredibili, che vivono là, questi 2 anni che girava col minivan, e tant'è che a Roma, nel giro dei cinematografari, a Roma, tutti quanti sapevano questa cosa. Cioè, sapevano che c'è questo, che sono anni che gira con sto minivan, che sta facendo questo documentario incredibile. E tutte le realtà di Roma che hanno a che vedere col cinema, le scuole di cinema, le società di produzione, tutti quanti ad un certo punto gli hanno prestato qualcosa. C'ho bisogno di una videocamera, c'ho bisogno di uno che mi faccia il backstage, c'ho bisogno di un fotografo. Tutti quanti un po' hanno contribuito a questo progetto assurdo. Ma dai. Sì, perché una cosa non finiva più. Io quando lavoravo ancora al Festival di Roma, sono ormai un paio d'anni che non ci... Anzi, t'hanno licenziato. No, un anno, è cambiata gestione. T'hanno licenziato, dai, per inettitudine. Incompetenza manifesta. E... si parlava di, oh, dobbiamo lavorare per averlo, ed era già 2 anni fa, per cui insomma, però, questo non lo finisce, non lo finisce, non lo finisce, alla fine, andando a Venezia, perché non ci sono più io al Festival di Roma, evidentemente, certo. E vabbè, insomma, ma non parliamo di questo, il documentario alla fine affronta 5 storie, cioè lui di tutto quello che ha studiato, ha scelto 5 storie, cioè, che incrocia. Con le registrazioni, con le riprese, ci potrebbe fare... Sì, no, lui ha decine di ore, ma ha decine di ore, anche di queste 5, che però ti mostra solo il meglio del meglio, ma veramente tu capisci che è il meglio del meglio, e capisci che lui chissà quanto ha, perché sono delle cose incredibili. Cioè, sembra effettivamente della roba sceneggiata. Dici, no, vabbè, l'hai scritte, perché non è possibile che una persona dica questa cosa con quello così di sfondo, con che sta accadendo quest'altra cosa qua. Cioè, sembrano paradossali. Quindi è evidente che li ha registrato talmente tante ore che alla fine escono anche le cose assurde. Certo, per forza. Anche cose belle, per forza. Hai queste 5 storie che si incrociano, nel senso che stiamo un po' con una e un po' con l'altra. Non sono propriamente delle storie, cioè non hanno uno svolgimento. Segui delle persone. Sono un paramedico che gira sul raccordo con l'ambulanza. Questo due familiare incredibile che vive in un palazzone di quelli che sorgono al lato del raccordo. È un nobile piemontese decaduto, pelato, con una barba immensa, che ha una parlata soffusa, molto delicata, con dei termini ricercatissimi, che vive in casa con la figlia, che invece è proprio di Roma ed è molto più gretta e materialista. E sono una coppia straordinaria. C'è l'ultimo pescatore di anguille del Tevere, che è un personaggio pazzesco. Un uomo in lotta disperata contro degli insetti che affliggono delle palme, che stanno lì vicino al raccordo, e lui li combatte con metodi altamente scientifici, cioè ascoltando il rumore che fanno questi insetti, combattendoli con degli altri suoni. E ultimo, un uomo non proprio, diciamo, dall'apparenza nobile, che vive in un castello, che sta al lato del raccordo anulare, un castello, e dentro è pieno di stucchi, busti romani, oro, vasche d'oro, cioè cose incredibili. Quindi gli vanno subito a fare la rapina, appena vedono il film. No, ma poi è uno che, insomma, ha un modo di fare non proprio da nobile, e che lo affitta a gente che fa i fotoromanzi. Ma cioè, non ci fanno... sono più fotoromanzi. Beh, invece sì, capito? Io pensavo non ci fossero più. Invece sono questi che fanno questi fotoromanzi, che sono proprio come quelli che ti puoi ricordare, cioè quelli che... Con Franco Gasparri. Questo non so i protagonisti, però sono quelle storie di intrigo / tradimento in contesti nobili, che chiaramente lo fanno in quella casa e là. E la cosa più esilarante di questi fotoromanzi è che a farli è uno con una compatta, con una macchina fotografica compatta. Tu ti immagini chissà che set. È uno con una compatta che scatta delle foto delle persone in posa. Così, una cosa molto svelta, di rapido consumo. Eppure quello è da morire. E poi ci sono dei transessuali, che non mancano mai, ovviamente. E la sorpresa è che... Ma le immagini lui fa vedere anche il raccordo, i panorami... Stranamente, poco. È incredibile. C'è poco raccordo, cioè, le code... No, ci sono ogni tanto, ma non tanto. Cioè, è una cosa molto moderata. La cosa incredibile è che si muore dal ridere tutto il documentario. Cioè, è una cosa veramente divertente. Da ridere? Sì, da ridere. E questi sono incredibili. Alle volte ridi per le battute che fanno, alle volte ridi perché sono assurdi. Cioè, è incredibile. E la cosa che a me è piaciuto moltissimo, per cui secondo me gli è valso il primo premio a Venezia, è che è veramente un documentario di nuova generazione. Cioè, sono documentari documentari che non somigliano all'idea che abbiamo di documentari, che giocano col cinema di finzione. Cioè, lui prende queste storie vere, riprese veramente, non c'è nulla di scritto, nulla di sceneggiato, come nei documentari che conosciamo, ma le riprende come se fossero dei film. Cioè, sembrano storie di finzione perché sono riprese, montate e guardate come storie di finzione. Un segmento, quello degli insetti, sembra il cinema di guerra. Un altro sembra la commedia grottesca all'italiana. Un altro sembra un film anni 50. Cioè, hanno un modo di svolgersi, di essere raccontate, che sembra il cinema di finzione. È veramente una cosa particolare, molto forte, molto romana, ovviamente, perché sono tutti di Roma. E poi devo dire, adesso ricordo bene, ci sono anche dei piccoli inserti di altre cose, cioè una pista di corse per modellini di automobili che so essere molto famosa. C'è il Divino Amore. Un'eclisse. Il Divino Amore durante un'eclisse, con della gente lì seriamente convinta che l'eclisse sia una cosa che fa la Madonna. Seriamente convinta. E poi che altro? Uno straordinario baretto che sorge lì, ma piccoli, quei baretti piccoli, che però ha le ballerine di lap dance al suo interno, strettissime, perché per ovvie ragioni. Insomma, ci sono tutta questa serie di piccoli inserti strani e grotteschi, ma veramente è un film che vi consiglio. Esce in Italia il 25 settembre. Sì. Sai per caso quanti anni ci ha messo a registrare, cioè a filmare? Due anni. Due anni. Quante ore di girato ha? Questo non lo so, ma io so che siamo nell'ordine della cinquantina, trentina, 30-50, tra le 30 e le 50 ore. Che sono tante? Beh sì, una valanga veramente, perché cioè, 30 ore sono un giorno, 50 ore sono due giornate di fila di materiale che va, va bene? E che lui si mette lì e guarda e punta. Chiaramente non registra due giorni di fila, però insomma, veramente impressionante. Ma come gli è venuta st'idea? Perché lui è un cineasta, Rosy, che fa spesso documentari sulle comunità particolari. Ne ha fatto uno che si chiama Below Sea Level, che io ho visto, su questa comunità che vive al di sotto del livello del mare, che non mi era piaciuto molto, Below Sea Level, però è particolare come documentario. Ma a Roma, no? No, è in Messico, se non sbaglio, comunque in una zona là. E lui aveva avuto l'idea di fare questo sul raccordo anulare perché c'è, purtroppo adesso non mi viene il nome, c'è un'altra persona che se l'è fatto a piedi tutto quanto. Se l'è fatto tutto a piedi per studiare le comunità. Purtroppo non viene il nome di questa persona qua, ma insomma è quello che gli ha dato l'ispirazione per poi farci il documentario, che gli ha raccontato delle cose che non hanno trovato spazio. Esempio, c'è una cosa che non sta nel documentario, ma che so che c'è perché appunto se ne parlava in conferenza stampa, che è questi due contadini che si fanno una guerra pazzesca tra i loro due orti, che sono orti confinanti, uno da un lato e uno dall'altro del raccordo. C'è una cosa da film western, una cosa stranissima. Quello la sapevo, magari non ha trovato cose particolari. Cioè, magari è più bello l'idea che poi quello che è riuscito a filmare, chi lo sa. Chi lo sa. Comunque, quello che c'è, secondo me, è tutto oro. È veramente roba. Diciamo, va il primo premio. Sì, secondo me sì. Io era. Devo dire, non pensavo che ce l'avrebbe fatta, ma io gliel'avrei dato. Era quello che il film che avrei premiato io. Invece quello che doveva vincere non ha vinto. Tom alla ferma. Si chiama Tom alla ferma, vuol dire Tom alla fattoria. È un film di un canadese che ha 24 anni. Questo ragazzo canadese ha fatto questo film. È il suo terzo film. E già è allucinante che uno di 24 anni abbia fatto il terzo film. Ma anzi il suo quarto. Gli altri tre stavano a Cannes, cioè, per dire, questo è uno così, questo è un franco-canadese. Quindi. E il film è proprio così, cioè è franco-americano, non lo so, ha un modo di... una storia americana, da film americano, ma ha un modo poi di fare un po' alla francese. È la storia di questo qui che va in campagna, questo ragazzo di città che va in campagna perché in questa casa di campagna ci sta la famiglia del suo ragazzo, lui è omosessuale, che è morto, e quindi lui va lì. Non so, come si sente quasi in dovere di andare lì e presentarsi, perché comunque lui era il ragazzo, anche se scopre anzi già sapeva, il morto non gliel'aveva detto alla famiglia che lui era omosessuale, c'era cioè un ragazzo, e là si trova in una serie di difficoltà incredibili, vessato, braccato, menato, di tutto gli succede là, e poi stranamente non se ne vuole andare. Ora questo vi rivederei troppo sul film, però è molto bello e molto nuovo, molto con un linguaggio che non si vede tutti i giorni, insomma veramente un film che doveva vincere perché è il nuovo. Addirittura il nuovo? No, una cosa un po' nuova, adesso non esageriamo, no, un po' nuova, ecco. Oh, ma io volevo prendere anche un'altra cosa, perché ma parliamo del grande escluso. Chi è? Volevo sentire. Del film Grande Escluso. Grande Escluso dalla premiazione o dal festival in generale? Dal festival in generale, perché è vessato. Ah, io già ho capito. Fammi indovinare, è una tua scoperta? Esatto. The President's Staff. The President's Capolavoro Staff. Assoluto. Ma tu l'hai visto? Allora, The President's Staff fa parte di una serie di film che sono stati prodotti da, per la rete dalla Rai. Si chiamano Rai Web Movies. Sono 15, quindi è una cifra incredibile. Io ne ho visti un paio e mi è bastato. Quindi non sono andato avanti. In questo paio non c'era The President's Staff. Perché tu non sai cercare. Perché sei superficiale. Se avessi scavato a fondo, avresti scoperto questo film sul presidente degli Stati Uniti d'America che rimane chiuso nella sala ovale, e dove, che è completamente piena di minata, completamente minata. Se apri la porta esplode, se apri la finestra esplode, se alzi il telefono esplode, completamente minata. Minata da chi? Minata da chi? Si viene a scoprire che è minata da i russi. No, si pensava ai russi, ma invece il... minata dagli alieni. Non ci posso. No, dai, non è vero. Minata dagli alieni. Mi prendi in giro. Ma il... no, te lo devi vedere perché il finale... Vedi il finale? Io ho preso il martello e ho rotto il monitor, capisci? Hai dovuto comprare un televisore nuovo. Ho comprato un televisore nuovo. Ma poi c'è anche la vocina. Dell'alieno? Sì. Che parla proprio così. Non posso credere. Mentre parliamo di De Niro e Stallone insieme sul ring, ecco il primo trailer di Grudge Match. Se sognavate di vedere Jack LaMotta, Rocky Balboa sfidarsi, il momento è arrivato. Del film ne abbiamo parlato parecchio negli ultimi mesi e ora ne possiamo guardare le prime immagini. Infatti è appena arrivato online il primo trailer di Grudge Match, che uscirà nei nostri schermi all'inizio del 2014, probabilmente con il titolo dell'ultimo pugno. La commedia diretta da Peter Seagal vede protagonisti Robert De Niro e Sylvester Stallone nei panni di due pugili attempati che si ritrovano a fronteggiarsi sul ring a quasi 50 anni di distanza dal loro ultimo incontro. Certo, certo, povero De Niro. Adesso parliamo di questa terra che ha fatto nascere questo. I nostri contributi, le nostre clip adeguatamente tagliate. Aspetta, no, questa l'ho persa. Twice, but the tie-breaking grudge match never happened. Today I'm announcing my retirement from professional boxing. Ma quello era uno Stallone ringiovanito, era. They want to put you a kid in the game. All they do is videotape you throwing a couple punches, voice records you. I'm killing you. Except in a white guy's voice, because they don't want to scare anybody. Okay, Razor, let's throw some jabs at Wilbur the dummy. Come on, Razor. Imagine this kid. Hey, I hope I don't look like that big of an ass. Set me up. I told you come at 1 o'clock, kid. I want to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him. It don't look like you're missing any meals. I'm out of here. No, you're not. Una commedia. Check out this clip that is just blowing up online. I got a company that wants the official rematch. They're gonna pay you $100,000. Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it. The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house. I'm your trainer, Mike. You can't be my trainer. Maybe I believe you ate my trainer. Time to train. What have I done? It's insane. Well, yeah? Give me one reason. You're fat. You got weak knees. You're fat. Don't sugarcoat it. Be honest. Tu non sapevi di questa uscita? Non sapevo di questa uscita. Ero a Venezia, ho tutte le scuse del mondo. Ma che è Venezia? Si sa da mesi. Tu lo sapevi da mesi. C'è scritto, lo dice. Ma invece facciamo pubblica utilità. Siccome è partito Venezia a Roma, cioè i film del Festival di Venezia sono in alcune sale di Roma per un periodo limitato, cioè fino al 18. Fino al 18 si potranno vedere il programma. Cioè cercate su internet da Venezia a Roma e trovate il programma. Vi faccio pubblica utilità perché vi dico cosa per cosa fare a cazzotti e per cosa invece insomma lasciarlo anche agli altri. Vi sconsiglio di andare a vedere a Venezia Roma il vincitore, cioè Sacro Graal, perché esce tra poco, quindi non c'è bisogno di fare la fila per quello. Vi consiglio Toma la Ferma, che lo fanno lunedì 16 ed è veramente quello, vale la pena fare la fila. Vi consiglio molto, guarda, lo consiglierei anche a te perché è un film da te, Lock lo fanno sempre il 16 alle 20:30 e alle 22:30, poi adesso magari ne parliamo anche. Dove? Lo fanno al cinema Giulio Cesare, sala 1, 20:30 e 22:30, Lock. Vi consiglio anche Still Life, che lo fanno mercoledì 18. e che è via Castellana Bandiera. Questi ve li consiglio tutti quanti. Poi a chi piace può andare a vedere Terry Gilliam, che lo fanno sempre il 16 alle 22:30. Insomma, ce ne sono di cose da vedere, sono in linea di massima molto molto belle. Vi sconsiglio solamente The Canyons e La Jalousie. Questi potete veramente tralasciarli, insomma, anche no. Pensi che farà cassetta Sacro Graal? Questo, guarda, sarà veramente la cosa da guardare, perché solitamente i film col bollino di un festival vanno male. Cioè, quando la gente vede premiato a Sra, esatto. Infatti io pure faccio così. Esatto, la gente che è disamorata. Però questo è un italiano, se ne parla tanto, è strano, è particolare, vediamo come andrà. Poi è divertente, per cui il passaparola dovrebbe essere buono, perché si ride, insomma. Tende a piacere anche al di là del, diciamo, di qualsiasi possibile intellettualismo. Secondo me potrebbe essere una cosa che potrebbe andare bene. Invece Locke, questo qui che ho visto, è un film che uscirà sicuro e che è una delle cose per cui si va a Venezia. Cioè, uno va a Venezia per vedere cose impreviste. Non sapevamo fosse così bello, invece lo è. Stava fuori concorso. È un film tutto girato in una macchina che fa un viaggio. Cioè, c'è un uomo all'inizio del film che entra nella sua macchina, una bella BMW, un bel product placement. Questo dove? Ambientato Inghilterra, a Inghilterra. Quest'uomo prende questa macchina e comincia a viaggiare. La prima telefonata che fa è tutto il telefono, chiaramente. Telefono col viva voce, così che lui non debba. La prima telefonata che fa è per spiegare ai suoi datori di lavoro, e scopriamo che lui lavora in un cantiere, il cantiere più grande d'Europa, e lui è quello che lo gestisce proprio, quindi un pezzo grosso, non è che ha la BMW. Gli dice che il giorno dopo, che è un giorno fondamentale perché danno la colata di calcestruzzo. Vabbè, io quello sono un pezzo grosso e però c'ho... Ma tu sei umile, è diverso. La banda. Tu sei una persona umile, capito? Altri non lo sono. Dicevo che il giorno dopo che danno la colata di calcestruzzo, che è il momento, ti spiegano che è il momento determinante, lui non ci sarà. Si arrabbiano come dei pazzi, lo licenziano al telefono, perché è impensabile che non ci sia, e durante tutto il film capisci perché lui ha fatto questo, dove sta andando, perché ha fatto questa scelta. Farà una serie di telefonate appunto ai datori di lavoro, alla moglie e a un soggetto X che non vi anticipo perché sennò e quindi è un film di dialoghi, ma molto forte, veramente scritto alla grande, in cui come spesso capita tante cose si affastellano nello stesso momento. Lui in quell'ora dovrà risolvere tre problemi pazzeschi e solo al telefono, e soprattutto la cosa per cui mi è piaciuto moltissimo è perché alla fine, anche quando a metà film avete capito, ok, ho capito di cosa parla questo film, ho capito che è, finisce non come ve l'aspettate. Cioè, solitamente in questi film l'eroe, il personaggio positivo, il protagonista non fa queste scelte, sceglie altre cose solitamente, e mi è piaciuto molto invece che lui invece faccia una scelta diversa dal solito. Insomma, si chiama Locke. Bene, com'era l'ambiente a Venezia? C'erano sempre i soliti critici, sempre quelli. Ma guarda, a Venezia ci sono due tipologie. Hai visto il nostro Giovanni? Ho visto, l'hai incontrato? L'ho visto. Avete preso una spritz insieme? Non vi è stato il tempo, purtroppo, ma l'ho incontrato. Ma poi fa ste figure. Ma guarda che Venezia è un posto strano, perché per esempio al buon Francesco Alò, che stava lì dall'inizio, io l'ho visto una volta sola, incredibile. A me mi ha detto che non t'ha visto. No, forse poi perché ci non siamo, voleva. Ci siamo, si nascondeva lui. Sì. No, ci siamo visti dopo che l'hai sentito, quell'unica volta. Li abbiamo visti una volta sola, che è stranissimo. Avete preso un drink insieme? No, ci siamo visti prima di un'intervista, ci siamo visti. Ma che vi siete detti? Come va? Quando ti incontri a Venezia, c'è sempre il dialogo, è sempre lo stesso. Ed è: come va? Tutto a posto? Hai visto cose belle? Perché magari tu vai a vedere delle cose che gli altri non hanno visto e le consigli, capito? Invece abbiamo visto le stesse cose. Tu fai subito lo smargiasso. Ah, ti sei perso quello che era fantastico. No, io depisto. Vai a vedere quello, meno schifo, capito? Depisto la concorrenza. E la sera? E a me io sono stato depistato, non mi hanno mandato a vedere certe cretinate, guarda, mai. Ma più io, certa gente mi ha mandato a vedere certa roba. Cioè, ancora caschi, sì, ancora in bocchi, nei tranelli. Queste cose, ma lo so pure io. C'è un film cileno imperdibile, presto, vado prima che sennò c'è la fila. Ma guarda, non c'è nessuno a fare la fila, che fortuna. Chissà che miseria. Ma tu perché tu sei ancora un buon tempone? Ma perché io sono una, capito, sei un animo nobile, un cuor contento. Una persona semplice. Oddio, dico, ma santa pace. Cioè, ti mandiamo lì, la radio spende quello che spende. 25.000 euro abbiamo speso. 25 per mandarti al Danieli, perché lui, esatto, sta tranquillo. Sta bello, facile. Perché la radio ha la convenzione col Danieli. Sì, ci andiamo tutte le settimane. tu pensa, Luciano la Savollo, che io intervisto spesso, lui va tutti i weekend. Ma non solo, no. Sergio Gararo, ma grazie. Non solo il Daniele, grazie. La lancia ogni giorno che mi porta al festival, a disposizione. Grazie, che grazie fa la redazione qui. Lei tutti i weekend se ne va a riposare al Danieli. Come a 5 minuti? Sì, un attimo, va lì. Perché guarda come si dorme al Danieli. Oh, figlio mio, sapessi. Comunque, a Venezia ci trovi il criticone, cioè maglione a collo alto, gran fare. Quindi... Sì, che ti avvicini e sta che parlando. Ha, che ha la pacca di giornali sotto il braccio. Esatto, barco. Quasi tutti di orbita di sinistra questi giornali. Si intuisce, capito? Che quando ti avvicini per ascoltare le conversazioni, sta parlando di quanto non vadano bene certe cose. Ci sono delle cose che non vanno bene. Tutto sbagliato. Ci sono i giovani esaltati, quelli con la scintilla di speranza negli occhi, I capito? Blogger. I blogger in fila esaltati per film che li deluderanno, però loro ci credono tantissimo. E poi ci sta una fascia di mezzo di gente disperata come me, senza gli arte sfigati, né parte. Quelli senza che arte non so né niente. Parte. Esatto. Quelli che non sanno niente. Che stanno come scemi. Stanno così. Senti, ma si pagano i biglietti? Allora, ci stanno le proiezioni per il pubblico e quelle un pochino prima per la stampa. Per cui per il pubblico si pagano i biglietti e costano più o meno 5-6 euro. Un costo insomma, normale. E, tranne quelli nella sala grande col cast, quelli costano di più. Però insomma è una cosa tra virgolette di gala. Voi sciacalli pagate? No, diciamo, stampa non paga. Ah, ma ti devi far accreditare? Sì, pago l'accredito, 50 euro. Vabbè, allora paghi. Pago l'accredito, vabbè, però io scrivo questo festival, mica stiamo a. Ci sono festival in cui non si paga l'accredito, tipo Cannes non lo paga. Cannes non si paga. Esatto, per dire. Hollywood? Mai stato. Ma cioè, non si... Perché non è un festival, è una premiazione di film già usciti, per cui non, a me non mi interessa. Gli ho detto, mi hanno chiesto di andare e ho detto di no. Però dovresti, una volta nella vita dovresti andarci. No, una volta ci devo andare per forza, sicuramente. Devo risparmiare, perché lì costicchia un po' sia il viaggio che lo stare. Però insomma, dove lo fanno? Alla Los Angeles? Ma Los Angeles. Che vuoi che sia? Che vuoi che sia? Ti mando da un mio amico. Allora sì. Allora vado. Va bene. Feste ne hai fatte? Allora, feste, fammi pensare. No. Quest'anno ciao, ho fatto... la ragazza sta sentendo, bravo. Quest'anno le voglio dire a tutti quanti che ho fatto vita monacale, a letto dopo l'ultimo film, sveglia per il primo film del mattino, proprio... Sai che nei baretti di Venezia, quando tu vai la mattina prestissimo perché devi andare in fila e fai colazione, ci stanno sul bancone i resti magari di quello che ha fatto colazione prima di te, che non hanno ancora levato, bicchierini di superalcolici. No. La mattina. No, ma sono quelli che tornano dalle feste, che fanno colazione e vanno a dormire. Secondo lui me svegli. No, secondo me sono i veneti duri e puri col bicchierino. Dici, Secondo me sì. E si fanno il grappin. E via, e parte la giornata. Io credo che parte. Porca miseria. Poi altre cose che ho visto a Venezia rapidamente, cose highlights di Venezia. Io ho visto che mi è piaciuto moltissimo l'ultimo film di Miyazaki, cioè il grande maestro dell'animazione giapponese, Hayao Miyazaki, ha presentato quello che doveva essere il suo ultimo film in, come ha deluso tutti. Tutti hanno scritto un film debole. Ma de che? È giusto che si sia ritirato perché insomma un po'. Anzitutto io stavo in conferenza stampa quando è stato annunciato il ritiro e casualmente avevo il cellulare in mano perché la conferenza stampa era finita e hanno detto vogliamo dire un'ultima cosa, perché lui non era presente, lui non esce mai dal Giappone, qui non era presente. Perché? E lui non è fatto così, non esce mai dal Giappone, per cui non c'era, e hanno fatto tutta questa conferenza stampa, era finita, ci stavamo alzando, io avevo il telefono in mano e hanno detto voglio leggere questa dichiarazione del maestro e dicono questo qui è il mio ultimo film, mi ritiro. Allora l'ho subito twittata. E credo di essere stato il primo nel pianeta a twittare questa. Mi è esploso l'account Twitter di retweet, risposte, cose. Sono andati tutto il giorno solo a rispondere a gente. È stato veramente un evento che dimostra poi l'amore incredibile che c'è per Miyazaki. Questo film secondo me è bellissimo. E lo dirò in una sola frase, lo dirò perché è bellissimo. Capacità di sintesi. La forza della critica. Perché è la biografia di un uomo che è esistito, cioè un progettista di aerei degli anni 30 giapponese, che fu quello che progettò gli aerei dei kamikaze. Che non erano molto... Esatto, gli aerei sono aerei molto particolari. E la sua vita, proprio la sua vita, ma in realtà è la biografia di Miyazaki stesso. Vedendolo è chiaro come lui tratta questo progettista come un disegnatore che ha gli stessi problemi, gli stessi sogni, le stesse aspirazioni di Hayao Miyazaki. Quindi è come se lui avesse fatto una sua autobiografia parlando di un altro, una operazione di una sofisticazione pazzesca, beh, commoventissimo. Io ho pianto tutto il film. È veramente un film, secondo me, imperdibile, tra i migliori che lui abbia fatto. Ma come, dicono che è il peggiore? Ma tu non devi ascoltare gli altri. Gli altri non capiscono, capito? Poi tra un anno, sai tra un anno che dicono: maestro, capolavoro del maestro. Ma io l'ho detto subito. Stai avanti. No, sei incompreso. Sono un incompreso. Sei incompreso. E invece poi voglio dirti un altro film che invece mi guadagnerò gli strali e l'opposizione dei più dicendo questa cosa. Ma io non ho paura di andare contro. Lo so, sei un ardito. Esatto. Sei ardito. Ed è il film che ha vinto il premio della giuria, si chiama Stray Dogs. È un film cinese, casualmente anche questo l'ultimo film del suo cinema, di questo cineasta. Solamente che lui, diciamo che ha avuto un'altra idea. Cioè, visto che è il mio ultimo film, non ne farò altri, quindi non ho il problema di, che ne so, questo film non incassa, non ne puoi fare altri. Non ho nessun problema. Non me ne frega niente. Niente. Ha fatto un film estremo, ma veramente estremo. Per estremo intendo che è un film fatto da poche inquadrature che rimangono fisse, con i personaggi che non si muovono al loro interno per diversi minuti. Ma diversi proprio. Cioè è un film raccontato per scene in cui la gente rimane ferma. È un film che dura più di 2 ore, da 2 ore e mezza, quindi è molto lungo, con questa gente che rimane molto ferma per molto tempo. Certo, le inquadrature sono straordinarie, sono come quelle foto che tu a guardare una foto magari ci stai tanto a guardarla. E chiaramente è difficilissimo da guardare, però è veramente straordinario. La dimostrazione che è straordinario, io l'ho avuta all'ultima inquadratura. L'inquadratura che dura il film. Quando sei arrivato esausto, distrutto. No, l'inquadratura durante quell'ultima inquadratura, io a un certo punto ho pensato, oh ma quant'è che stiamo guardando questa gente? E alla fine ho scoperto dopo, che cioè non fa in tempo a cronometrare, che l'ultima dura 15 minuti. Fermi. 15 minuti, noi nel pubblico fermi, a guardare loro nello schermo fermi per 15 minuti. E che fanno? Allora, ed è pazzesco, in quell'inquadratura guardano qualcosa che sta fuori dall'inquadratura, che noi sappiamo perché l'abbiamo visto prima, è un murales. La cosa pazzesca è che non solo è avvincente questo inquadratura, cioè rimaniamo tutti fermi a guardarlo, alla fine poi ovazione, applausi, ma gli attori fanno tutto un passaggio incredibile, cioè le loro espressioni cambiano, anche se di poco, come le nuvole che si spostano lentamente e alla fine ti sei accorto che non stanno più dove stavano prima. In 15 minuti fanno un viaggio incredibile, tant'è che alla fine di questa inquadratura, quando uno tocca l'altro, pesa un colpo a tutti quanti, oh madonna, perché acquista una forza incredibile. È una dimostrazione di cinema estremo, perché è estremo, però pazzesco. Cioè, io sono reso di fronte a questa cosa, ho detto un'esperienza che non avevo mai vissuto. Marlo, veramente, attimo, tant'è vabbè. Premio della giuria, perché comunque era impensabile non premiare un film del genere, così coraggioso, così audace, così particolare, ben fatto, potente, poi. Porca miseria, veramente un'esperienza. Ma il film più bello del festival, a parte Sacro Graal, è un film americano con George Clooney, cioè una cosa che tu diresti non è da Venezia, un film sullo spazio, fantascienza. Ma veramente, dopo Sacro Graal per me è il più bello, anche meglio di Miyazaki. È un film bellissimo, si chiama Gravity, uscirà perché è un filmone grandissimo, è costato una valanga, ed è un film ambientato tutto nello spazio, moderno, cioè nella contemporaneità, non nel futuro. Due astronauti stanno riparando una stazione orbitante, una cosa che capita continuamente nello spazio. Arriva una tempesta di oggetti, si spiega perché arriva, perché c'è stato un problema, insomma, arriva una tempesta di oggetti e loro cominciano a essere sballottati e a un certo punto finiscono a vagare, cioè nello spazio che vaghi, che sei morto chiaramente, che non è che ci sta, che devi fare nello spazio che vaghi. In realtà, in una certa maniera, cominciano a battersi per vivere, per sopravvivere, e questa lotta di questi due nello spazio per vivere è straordinaria a un livello molto semplice e basilare, perché è avvincente e questo già lo rende un buon film. Ma sono collegati con la Terra, loro si parlano con la Terra? A un certo punto non più, a un certo punto non riescono più a parlarsi perché la loro antennina si sfonda. Non solo, poi hanno il problema dell'ossigeno, mica possono respirare per sempre. Ah, e poi come torneremo? Come fanno? Non volevo, cioè, vi levo cose chiaramente, perché ogni cosa è un problema. Poi come torniamo sulla Terra? Cioè dobbiamo trovare qualcosa che, per tornare. Insomma, è veramente super avvincente ed è un film che senti veramente a un certo punto, cioè alla fine io mi volevo alzare in piedi e urlare di gioia, perché senti l'idea di sopravvivere, cioè io non morirò, porca miseria, non ci muoio io qua, e lo senti veramente in maniera tangibile. Ci sono 2 o 3 momenti, la disperazione è palpabile, cioè ci sono dei momenti all'inizio quando proprio, che è proprio la disperazione, arrivano gli oggetti sballottati, non ce la faccio, oddio aggrappati qua, non ce la faccio, oddio aiuto, non mi lasciare, quelle cose così, la senti veramente tanto. E poi ci sono anche quegli altri momenti in cui solitudine, terrore, non tornerò, mi arrendo, basta, dice, ma smetto di lottare, è finita. E poi ti senti male perché pensi, oh madonna, ma ti arrendi così, però chiaramente poi succedono cose, ma è bellissimo perché unisce due cose, unisce le due mitologie spaziali principali che conosciamo, quella americana, cioè lo spazio è un luogo di avventure, è un luogo quella dove tu vai... russa, scommetto. Bravo! Veramente? Bravo, quella russa, grande, bravo! Sono grande, è incredibile, un talento strappato alla critica. Lo so. Cioè, quella americana per cui lo spazio è un luogo di avventure, cioè, per dirla banalmente è un luogo dove esplodono astronavi, e quella russa, lo spazio è un luogo dove in realtà tu incontri te stesso, è quella di Solaris, è quella di quei film là, un luogo quasi al confine con la metafisica. Il film non comprende la metafisica, è tutta roba che è improbabile come sono i film, ma che può accadere effettivamente, però vedrete che durante il corso del film c'è anche questa idea che è originale per il cinema americano, è veramente un film incredibile, ci sono anche i trailer online già, si chiama Gravity, andateveli a guardare perché quando li vedi ne rimani conquistato. Dopo tutto questo tempo, vieni a farmi visita, fratello. Perché? Per schernirmi. Devi aiutarmi. Vorrei potermi fidare di te. Se lo facessi, saresti lo stolto che ti ho sempre ritenuto. Alcuni credono che prima dell'universo ci fosse il nulla. Ma sbagliano. C'era l'oscurità ed è sopravvissuta. Che succederà? Ti avevo promesso che sarei tornato per te. Anche questo deve essere uno di quei film. Hai capito, Thor? Thor. Va bene, ma vediamo un po' cosa è uscito questa settimana. Parliamo subito di Poliziotti dall'aldilà. L'unico che non ho visto. Cioè, c'è un unico di questa settimana che non ho visto. No, allora me ne vado. L'unico. Ah, in realtà ce n'è un altro. Vediamo se becchi anche l'altro. Ce n'è solo un altro. Me ne vado. Poliziotti dall'aldilà, dai. Poliziotti dall'aldilà non l'hai visto. Ce n'è solo un altro che non ho visto, a parte questo. Un fragile amore. Una fragile armonia. Fragile armonia. Non è male. È un dramma da camera. Quei film racconta di un quartetto d'archi: Philip Seymour Hoffman, Christopher Walken e altri due, un attore e un'attrice meno note, che sono appunto un quartetto d'archi che impegnati a fare quest'opera di Beethoven, questo pezzo di Beethoven che si chiama Opera 131, che viene detto subito è particolare perché è molto lungo ed è senza stacchi, cioè non puoi interrompere mai, e questo qui fa sì che non interrompendo mai gli strumenti si scordano mentre tu suoni, però non ti puoi fermare per riaccordarli. E allora, questo in apertura di film, Christopher Walken, che è il vecchio maestro, dice: e allora che bisogna fare quando si fa questo pezzo? Fermarsi lo stesso e interrompere la volontà dell'autore, oppure andare avanti e regolarsi di conseguenza gli uni con gli altri? Questa poi è la grande metafora di quello che succederà nel film, cioè questi quattro hanno una relazione tra di loro molto strana, molto forte, ma si dovranno regolare l'uno con l'altro per poter andare avanti. E devo dire, molto bello, scritto molto bene, se vi piacciono i drammi da camera, Una fragile armonia ci sta tutto. Perché è musica da camera. Bravo, io nella mia recensione l'ho fatto anch'io questo parallelo. Il potere dei soldi, prego. Ah, potere dei soldi, ecco, no, non mi piace. Cioè, Harrison Ford. Lo so, Harrison con la pelata. C'è Harrison Ford. Harrison Ford e Gary Oldman anche, che buttalo mica, via. Mica, fanno due magnati di due compagnie di tecnologia, di grandi colossi di tecnologia, e il protagonista è assunto da uno per spiare l'altro, fare spionaggio industriale, quindi infiltrarsi. Però chiaramente questo novellino che si infiltra da Harrison Ford sotto ordine di Gary Oldman non ha capito che invece è pedina di un gioco più grande. È uno di quei film di inganni, un film di grande inganni, nei quali la tecnologia è usata come la magia, cioè fa tutto, la tecnologia si può fare qualsiasi cosa, gente che hackera computer con un tasto, quelle cose così. Insomma, quindi con la mente, pazzo. Sì, esatto, l'abbiamo hackerato con le scritte giganti, insomma, una cosa un po' fastidioso, non mi ha preso per, non mi ha vinto per nulla. 1945, la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'inizio di una nuova era. Spirit of 45, il nuovo film di Ken Loach. Un grido di allarme contro gli eccessi del liberismo. The Guardian. Loach smuove le coscienze dei politici in tempi di crisi. Time Out. Spirit of 45, dal 12 settembre al cinema. Che cosa? L'aurora. Stupenda. È bello. Era il trailer di Gravity, che ho dimenticato di dire un particolare determinante, è in 3D ed è un gran bel 3D, molto bello. Uscirà in Italia sicuramente tra poco, insomma, come hai visto, come ti avevo detto, è tutto un film di ti prego non mi lasciare ferma, di urla e di cose. Veramente molto molto molto convincente. Invece devo dire una cosa, perché questa è una radio libera e io non ho paura di dirlo. Questa è una radio libera. Devo dire una cosa, il film di cui è andata la pubblicità esce questa settimana, The Spirit of 45. Andatelo a vedere per farvi un'opinione, ma io sono fortemente contrario. È un documentario che mi trova molto contrario e trovo ideologicamente aberrante. Perché, addirittura. Sì, perché fa un discorso sull'Inghilterra del 45, quindi l'Inghilterra che si riprende dalla guerra mondiale, e fa un discorso di, è Ken Loach, quindi di grande comunismo, comunismo degli anni 50, che figuriamoci, delle grandi conquiste del comunismo di quegli anni, ma fa, secondo me, una cosa imperdonabile, che è trasferire quel modo di riflettere all'oggi e quindi far risolvere i problemi dell'oggi a persone con la mentalità del 1945, cioè un atto di passatismo, di luddismo e di arretratezza, secondo me, intollerabile. Detto questo, secondo me è buono per farsi un'idea su molte cose, perché ci sono cose che non sappiamo, cose che io non sapevo minimamente, cioè che l'Inghilterra fosse così a sinistra negli anni 40, non pensavo proprio. Perché tu non hai studiato? Perché sono un ignorante, questa è la semplice verità. Capra, capra. The world froze a long time ago. So long ago that I can't remember the warmth of the sun. I heard the stories growing up, how the planet grew hotter as our fuel was burned, how we made towers to work the weather. When the food ran out, the lucky ones found places like this. Questa è La Colonia, il film che uscirà quando non lo sai. Non lo so, non lo so. Questo è un film che non so. Però ti posso dire una cosa: ti posso dire che io questa sera, dopo che sono stato qua, quindi carico, qua, palla. Vado a vedere in anteprima stampa Rush, il film di Ron Howard su James Hunt e Niki Lauda, il duello James Hunt e Niki Lauda. Era annunciato da mesi quel film. Esatto, uscirà settimana prossima, io lo vedrò questa sera. Quello, devo dire, a me Ron Howard solitamente non piace, però vediamo. Temo che verrà ridotto, come spesso capita, queste cose verranno un po' ridotte ai minimi termini americani, però vedremo. La classica americanata. Sì, io lo temo moltissimo, però sarò di mentalità aperta. Mood Indigo. Era l'altro che non avevo visto. Lo sapevo che lo beccavi. Lo sapevo. Ma però lo vado a vedere sabato, perché il nuovo film di Michel Gondry non è stato mostrato oggi. Dovevamo parlarne oggi. Non è stato mostrato alla stampa. Che faccio? Viaggio a Parigi? Che faccio? Faccio un viaggio a Parigi. Un mondo in pericolo. Qual è un mondo in pericolo? No, questo non esce questa settimana. Fermi tutti. Qual è un mondo in pericolo? Un mondo in pericolo, eccolo qua. Ah, sì. Allora sono tre i film che non ho visto. Che ha fatto nascere quest'erba? So, è il film, un film sulle api. Ne parlavamo proprio martedì con Sara, che stanno morendo tutte le api. Ah, è vero, la storia della morte e delle api. E ne parlavamo anche con Luciano Vasapollo, il quale aveva parlato con il presidente della Venezuela, se non mi pare, che anche il presidente del Venezuela è preoccupato per la morte delle api. Ma perché muoiono? Perché l'ecosistema si sta frantumando. Che tu pensa, le api sono gli esseri viventi più importanti della Terra. Sì? Ma tu valla a sapere. Ma perché impollinano i fiori, per quella storia lì? Impollinano. Hai sbagliato l'accento. Sì? Sì. Vabbè. Perché impollinano i fiori? Sì. Cioè, non lo so, però insomma, quando muoiono le api vuol dire che il mondo siamo sta morendo. Siamo fottuti. Incredibile. Stiamo vedi le api che muoiono. Stavamo parlando, ti ricordi, sì, Sara? Proprio martedì, la una notizia sulle api. Sì. E poi ne parlava anche Luciano a proposito del, che era il presidente del Venezuela, che parlava, sì, Morales. Era preoccupato per la morte delle api. Cioè, il presidente di uno stato è preoccupato per la morte delle api. E abbiamo trovato un documentario sulla morte delle api. Partiamo proprio da lì, in effetti, eh. Incredibile, incredibile. Oh, in una settimana tre cose sono successe, quindi qualcosa di grave sta accadendo. Beh, sì. Incredibile che non l'abbiano mostrato alla stampa, è una vergogna. Potevi pagare il biglietto, abbiamo dato $40,000 per andare a Venezia. Appunto, non mi è rimasto nulla. Lì la vita costa. È sparato tutto. Lì la vita, al secondo giorno già stavo sotto. La droga, eh. Oh, invece il film che ho visto questa settimana, esce L'arbitro. L'arbitro è un film veramente particolare. È un film italiano di Paolo Zucca e ha una gestazione stranissima, che solitamente in Italia non va così le cose. Viene da un cortometraggio, cioè lui fece un cortometraggio chiamato sempre L'arbitro, nel 2009, vinse David Donatello e gliel'hanno fatto fare a film. Che racconta? Racconta due storie parallele che poi si incrociano nel finale. Una è un arbitro di massimo livello, cioè che è in gara con gli altri arbitri per arbitrare la Champions League. L'altra storia invece è un campionato infamissimo di periferia, di campagna sarda, cioè un campionato veramente agghiacciante. È un film molto divertente, molto grottesco, che racconta però bene lo spirito del calcio, cioè appunto questi campionati che, con le squadre che mischiano sessantenni a undicenni, cioè roba nei campi polverosi e con accanto il cimitero. È molto molto forte, peccato che finisce malissimo, è un brutto finale, però per il resto è un... Finisce male perché è fatto male o finisce male è brutto? Scritto male, alla fine l'ho scritto questo? Un pallone sgonfio. Una sfera. Una ruota. No! Questa è aria. Aria foderata di cuoio. E l'aria vola. Hai comprendi? Vola dalle fasce al centro. Dalle fasce al centro. Lei non è un arbitro in fuori classe. Ci viene al cinema? Non lo so, ci devo pensare. Avevi detto che venivi? Solo se vincevi. Sì, però come se abbiamo vinto? Allora al cinema non ci vengo, ma è come se c'ero venuta. Ai! Belli, è interessante. Molto bellino, veramente. Poi come si vede adesso, se vedete le immagini di trailer, è un film in bianco e nero, che già è strano, è fatto molto bene. Lui, Paolo Zucca, è veramente bravo. È un film appunto divertente, interessante, ha delle scene, secondo me, molto forti, vale la pena. No, bene. Bene, andiamo avanti. Esce Come ti spaccio la famiglia. Allora, Come ti spaccio la famiglia appartiene a quella tipologia di film che abbiamo visto parecchie volte. Cioè sono quei ma film. C'è Benito Urgu. È un grandissimo. Il grande Benito Urgu. Sai quella la sua parte? Lui è l'allenatore cieco. Lui è l'allenatore della squadra, ma è cieco. E in una scena che è da morire, che è una scena da film americano, loro devono battere una punizione. Lui si arrabbia perché non ci sta questa punizione, gliel'hanno rischiata contro. E dice: adesso basta, la batto io, cieco. La batto io. No, entra in campo con un fare enfatico, piazza il pallone anche se è cieco, prende la rincorsa, lo manca e finisce per terra. Da morire da ridere. Dicevo, Come ti spaccio la famiglia è un film che abbiamo visto parecchie volte, nel senso che è uno di quei film vogliamoci bene all'americana, in cui dei personaggi che hanno uno stile di vita particolare, cioè uno spacciatore di droga, una stripper, uno sbandato, in realtà avranno un'avventura che li mette insieme e diventeranno una famiglia normale. Quei film che finiscono con la normalizzazione delle persone, che sono terribili, le commedie per tutta la famiglia. Però devo dire, questo Come ti spaccio la famiglia è molto più divertente della media. È un film scritto da quelli che avevano scritto Due singole a nozze, che è un film molto forte, e ha un umorismo decisamente sopra il livello, per cui insomma se vi devono trascinare a vedere un film di quelli ecumenici, buoni per tutti, innocui, Come ti spaccio la famiglia, se non altro vi diverte, per cui in questo senso e solo in questo senso lo consiglio. Invece il filmone che io già lo so, perché io già lo so che ho le mie fonti, sarà l'incasso di questo weekend, perché già nella giornata di ieri ha fatto l'incasso migliore, è Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il mare dei mostri, ovvero quello che vedevamo a inizio puntata, cioè la scopiazzatura di Harry Potter, che in questo suo secondo, questo è il secondo film, però che fanno, esce bene, per carità, bene, In questo secondo film, perché già ce n'era stato uno, è ancora più Harry Potter, cioè hanno enfatizzato ancora di più le cose prese da Harry Potter, è ufficialmente uguale, solamente che al posto della magia c'è la mitologia greca, o meglio l'idea americana della mitologia greca, una cosa proprio così a spanne, a grandi spanne. Questo in particolare guarda un po' all'Odissea, rubacchia dalle cose dell'Odissea, Polifemo, il mare, il peregrinare, la maga Circe, c'è un po' di queste cose. Non è il massimo, secondo me, perché io sono moderatamente fan dei film di Harry Potter, secondo me sono molto belli, mentre invece questo qua decisamente no, decisamente la versione proprio deteriore, un po' più cheap. Questo secondo film poi hanno speso anche un po' di meno, si vede, ha degli effetti veramente, da quattro soldi. I fili di nylon che si vedono. Sì, quelle cose che alcune cose sono in computer grafica, altre è uno con un costume, cioè si vede, è un costumone, si muove lento, quelle cose così. Insomma, anche no, ecco, non c'è bisogno. This is the president. Mr. President, we have a situation. He was trained to kill. CIA, FBI, DEA all roll up in the war. Then left for dead. I know what they did to your family. And now he's back. Machete. For his most dangerous mission yet. We need your machete. There's a revolutionary assault on the border. He's got a missile aimed at Washington. Check him, Mel Gibson. I got mine. Machete, go kick some ass. I'll be your handler. You ready for this? Good for calls, texts, tweets. Machete don't tweet. The enemy may have a missile, but we have machete. Machete kills. That's what he does. You can't beat my army of super soldiers. Bring me my double Ds. You've seen my face. Muy bien, indeed. I smell fish taco. È diventato già un must solo insomma, i trailer. Machete kills. C'è di tutto. Devo dire che i trailer sono fatti benissimo, no? Perfetti. Il film che sarà un capolavoro assoluto. Ci sta Mel Gibson, che sarà anche in Expendables 3, eh? Mel Gibson sarà il cattivo di Expendables 3. Ti do questa notizia, hai visto? Queste notizie. Ma si fa il gruppone per andarla a vedere? Ah, guarda, c'è chi l'ha già creato su Facebook. A me non mi hanno detto niente. Ma come, sei anche membro? Sono membro. Sei stato honoris causa. Io che ho pensato, che l'ho costruito io, Machete. Esatto, per quello è honoris causa. Io non ne sapevo nulla. Sì, sì, c'è già un gruppo, tocca solamente attivarsi, ma la data credo ci sia anche già. Abbiamo lasciato che il male ci sopraffacesse. Non è la nostra battaglia. È la nostra battaglia. E se fosse una trappola? È indubbiamente una trappola. Bello Hobbit, Hobbit. Imprescindibile. Devo dire, sono rimasto molto soddisfatto dall'ultimo Hobbit. Veramente non pensavo, invece mi è piaciuto molto. Ma l'hai visto? Questo è il secondo dell'Hobbit, cioè, Natale scorso c'è stato il primo, no, questo ancora no, a voi questo c'è Natale. Ah. 3D sarà un... come l'altro anche la 3D, bombone, insomma, beh, sì. Ma al momento il mio 3D preferito rimane quello di Vita di P, fin a Natale scorso, molto bello, veramente... Ah, quello della tigre, sì, sulla barca con... Molto bello, mi ha stupito veramente. Invece a Venezia ho visto un film di quelli che piacciono a te. Ah. Amazzonia 3D, quei film... Wow! Vedute Amazzoni, racconta la storia di una scimmia di città che finisce nell'Amazzonia, quindi poi dovrà, la storia è un pretesto per muovere una scimmia con una serie di immagini naturali pazzesche. Vado a vederlo, pazzesche. Vado a vedere. La natura dell'Amazzonia con un 3D spettacolo bellissimo, no? Un 3D bellissimo. C'è questa grande panoramica iniziale fatta dall'elicottero della foresta amazzonica che finisce sul Rio de Janeiro, cioè dove la foresta tocca la città, tutta in 3D, che è spettacolare da vedere. Sì, lo consigli? Sì, sì. Chiama i film con animali, sicuramente. Ah, bellissimo. Io sì, mi piacciono da morire. La natura, andrò a vedere pure quello delle api, perché quello deve essere bellissimo. È vero quello. Lo devo incastrare da qualche parte. Non sarà facile con i miei 1000 impegni. Va bene, abbiamo finito i film. No, ho visto un altro film, questo è importante da dirlo. Allora, ho visto un film che mi ha molto deluso. L'ultimo imperatore. Ma questo Bertolucci non è capace. No, allora, l'ultimo imperatore 3D. No, questo l'ultimo imperatore 3D è uscito. No, l'hanno 3Dizzato. Perché Bertolucci è fissato col 3D. Lui voleva fare l'ultimo film che ha fatto, che si chiama Io e Te, uscito 2 anni fa, che è un film quasi tutto in un ambiente solo, perché lui non si può muovere, che sta sulla carrozzella. Lo voleva fare tutto in 3D, però in realtà all'ultimo non gliel'ha fatta, non gliel'hanno fatto fare in 3D. Però lui è fissato e quindi ha rifatto l'ultimo imperatore 3D, l'ha dimensionalizzato, questo è il termine tecnico. Una delusione, cioè come se fosse in 2D, uguale. Non cambia niente. Sì, è stata una vera delusione, una cosa fatta male proprio, mi ha molto deluso. Oh, poi invece, settimana prossima, vi faccio un anticipo perché io settimana prossima, te lo dico subito, non ci sarò. Ma come non ci sei? Ti dico perché? Ma sei stato fuori. Mi hanno invitato a una tavola rotonda. Devo andare a parlare a una tavola rotonda e a Rimini. Sì, a Rimini. A una tavola rotonda a Rimini il sabato a mezzogiorno e non ci sono treni se non che mi impediscono di stare qui. Cioè, treni dalle 7 in poi o dalle 6 e mezza in poi non ci sono per Rimini, non ci sono. La mattina dovrei svegliarmi alle 5 per arrivare lì a mezzogiorno. E beh, sei seduto qua. E beh, fallo, no? Cioè, quindi vai la sera a Rimini a divertirti, a ballare. No, stile di vita monacale. Sì, vabbè, a Rimini. Ma vattene, va. Stile di vita monacale. Purtroppo devo andare la sera prima. Non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Cioè, io ho chiesto, Vai. Ti tocca andare la sera prima a Riccione e Rimini. Devo andare la sera prima a Rimini. Al Pascià, dove non vai? Non ci sarà nessuno, poi, tra l'altro. Sì, certo. Ma va. Non so che fare, poi che farò? Mangerò in hotel, il ristorante dell'hotel. Speriamo certo, che da solo andrai? Sì, niente da fare. L'ho detto alla mia ragazza. Ah, hotel ormai deserti, desolati, esatto, e tu da solo. Ho detto alla mia ragazza, ma che vieni a fare? Sì, sicuramente. Hai un sacco di cose da fare a Roma. A casa c'è un sacco di da pulire. Poi su Facebook una foto così che stai a ballare. No, allora, siccome non ci sarò sabato prossimo, vi consiglio il film da vedere sabato prossimo. Io già lo so, non l'ho visti tutti, ne ho visto uno solo di quelli di sabato. No? Però io già lo so qual è quello da vedere, ed è per tutti. Si chiama You're Next, cioè tu sei il prossimo. È un film che vi. Se guardate il trailer, vi sembra un film di quelli. In cui un gruppo di famiglia borghese viene attaccato e assediato in una casa. In realtà. Non è proprio così, cioè è un film che ti spiazza e ti sorprende moltissimo. È chiaramente un film d'assedio, in cui delle persone cacciano altre persone in una grande casa, per cui morte, ammazzamento, è un film molto efferato. Sangue ettolitri proprio, se ne va via giù a ettolitri, ma è anche un film, non posso dirvi nulla perché ti sorprende tantissimo, veramente andatevelo a vedere, in certi punti è quasi divertente, secondo me tra gli horror migliori, horror, slasher, dite quello che vi pare, migliori di questa stagione, ed è uno dei pochi secondo me che si può essere visto anche da quelli che non amano questo genere. Certo, dovete sopportare la vista del sangue, perché va giù che è un piacere. Assecchiate proprio. Esatto, però bello, bello, bel film. Ho lavorato, ma sì. Domani penso, no, magari un po' di riposo, mica ti fa male. Un po' di riposo. Che cazzo mi devi sentire? Vieni da me. Gli regali i soldi. Presenza di rumori. Squittii di larve e rumori di adulti. Intervenire immediatamente. Sì, sì, ci abbiamo un salone grande, sì. Facciamo bed and breakfast. Sì. E facciamo bed and breakfast. Ogni volta mi spavento. Non è vero da te al mondo. Ti dirò, te l'ho annusata talmente tanto che probabilmente qualcosa ha perso. Ha perso, sì. Probabile. È proprio una stupidaggine, te. Però a noi che siamo una vita dentro l'acqua, non ci interpellano mai, non importa mai nessuno. Vero, te? Che dici, te? Va bene così? Ma andiamo avanti, che ce lo dico. Oh, era il trailer di Sacro Gra, eh? Hai visto già che ci sono delle cose non male. Sì, sì. Ma però vedo che poi nel trailer non hanno puntato sull'umorismo. In realtà c'è molto di più da ridere. Hai visto quell'inquadratura di quel nobile piemontese da fuori dalla finestra? Sì. Quella è pazzesca. È una cosa, un'idea di. È pieno di queste idee. Di queste idee che tu dici, ah, porca miseria, che idea che hai avuto! Bravo. Sì, bella, mi piace quella cosa lì. Ma poi non solo, a un certo punto fa una cosa molto intelligente. Lui segue loro, però ogni tanto stacca con un'inquadratura uguale sulla finestra accanto. E c'è, fatti conto, una famiglia indiana dell'India proprio, con la madre vestita indiana che fa delle cose di casa e il figlio con le cuffie da DJ e i piatti che fa roba unz pesante. Poi quella accanto ancora due che pitturano e quella accanto ancora altri. Tutto che appunto sembra una cosa sceneggiata, invece è così, era esattamente così. Bravissimo. Vabbè, Vasquez, noi ci sentiamo tra due settimane. Ma ti posso telefonare il pomeriggio? O stai... Quando mi sarò svegliato, sì. Sara, vieni qua. Che lui venerdì prossimo non c'è. E dove vai ancora? A Rimini a fare una tavola rotonda. Dice che va a Rimini. Perché va a fare una tavola rotonda? Ma tu ci credi? Ma chi vuoi darla a bere? Sono stato invitato in quanto figura preminente della scena intellettuale italiana. Allora, chiediamo a lui, lui lo sa. Chiediamo a lui. Che cosa? Sì, a me sì, tra un po' sì. Che radio seria. Che brutta immagine. No, lui, quello là, non lo nomino, però è quello che parla di cinema, ha detto... Non posso venire venerdì prossimo perché sabato ho una tavola rotonda. Gli ho chiesto dove? A Rimini. E ha detto: beh, prendi il treno la mattina e arrivi lì per tempo. Gli ho detto: no, faccio tardi, almeno vado il venerdì. Che va a fare il venerdì sera a Rimini? Non si può dire per radio. Vedi? Guarda, vedrai che. Vuoi provare a chiamarmi, che ne so, alle 22? Mi troverai il telefono spento perché dormo. Alle 2:30 ti chiamo di notte. È bellissimo! Sto a palla! Mi hanno dato un drink strano. Mi sentivo male, mi hanno dato una pasticca. Sto alla grande! Grazie, Sara. Ci vediamo martedì, io e te. Sì. Qua, naturalmente, non da altre parti. Perché voi che rimanete. No, già mai. Grazie, Vasquez. Prego, un piacere. Lasciamo tutto, baracca e burattini, in mano al nostro Tamagnini, che torna dopo ben 2 settimane, no, di più, da quanto? 2 mesi? Quanto è? No. 3 mesi? Dal 3 agosto. Dal 3 agosto, Tu sei peggio di quelli di Baba Moon Time, sono fatti la lunga, da giugno che stanno in vacanza. No, te lo so, ma quelli non capito, quelli non hanno figli. Sì, altro che Grazie, per quel che mi riguarda è tutto, a martedì, e ricordate sempre che una pietra che rotola non cade mai sugo. Buon resto di Radio Città Aperta.